27. Suonate per noi, signore. Quella gig irlandese, oppure qualsiasi altra cosa, purché si possa danzare. Il sergente Bunyan aveva la faccia smunta, affaticata. La voce era appena impastata dall'alcol. Il vecchio soldato reggeva marce forzate, cibo inadeguato, liquore scadente. Quella tempra accettava ogni prova, purché non lo si privasse della musica e della paga. Il colonnello Percy aveva fatto distribuire il rum. I ribelli, in testa quel loro George Washington, si ritiravano verso Filadelfia. L'esercito di Sua Maestà incalzava. L'alcol lo tundeva, smussava, stendeva una coperta sui corpi troppo stanchi. Faceva cantare e ballare, ridere e piangere. Peter non aveva alcuna voglia di suonare. Posò la tazza piena di liquido giallastro. Conteneva un ordine implicito. Siate felici. «Vada per Anfer, signor Bunyan!» Peter tracannò l'ultimo sorso e proseguì. «Lasciate che vi dica una cosa, signor Bunyan. Se avete davvero voglia di ballare, siete un uomo di ferro!» Bunyan ricevette le parole del portabandiera come un complimento. La bocca si atteggiò in un sorriso virginale che sembrava fuori posto su un volto rude e già avanti con gli anni. Dopo una breve esitazione, Peter aprì la custodia. Il legno mandava un buon odore. Le setole dell'archetto sapevano di pece. Sembrava tutto in ordine. Prese lo strumento e lo soppesò, come a valutarne la consistenza. Lo imbracciò. L'archetto passò sulle corde già consunte. Lo strumento era stonato. Peter non si prese la briga di accordarlo. Non suonava più volentieri. Il motivo della disaffezione non era la spossatezza e nemmeno un cattivo umore passeggero. Giorni prima aveva captato una conversazione tra due guide, un Mansi e un indiano del sud. Il Mansi diceva che il fuoco della Confederazione Irochese era spento. Oneida, Mohawk e Seneca avevano sparso sangue di fratelli e cugini. Peter si era sentito gelare. Il pensiero era corso alla madre, allo zio Joseph, ai giorni di Canaiohare lontani quanto Londra, quanto la Cina o la Luna. Il mondo che aveva conosciuto si liquefaceva sotto i suoi occhi, neve al sole d'aprile. Uomini e volti viventi divenivano dolorosi ricordi. Peter sentì vibrare le note. I soldati accennarono passi di danza. Suonò come un automa. Le dita trovarono gli accordi per virtù meccanica. La marcia era lenta, malinconica. Impossibile danzare. Dopo un buon minuto Peter ebbe un sussulto. Si accorse dell'imbarazzo degli uomini. «Perdonatemi, signore, non vi sembra troppo lenta come giga?» Il giovane fece un cenno col capo. «Avete ragione, signor Bunyan, non mi sento affatto bene, ho bevuto troppo. Vogliate scusarmi?» Peter ripose il violino nella custodia, si accomiatò e sparì nella tenda, seguito da un brusio di delusione. Il lume ardeva lento, mandava ombre guizzanti. Steso sulla branda, Peter fissava un punto in alto, sopra la testa, oltre la stoffa incerata che copriva il corpo e i possessi terreni. Guardò la custodia del violino. Un tempo, aprirla era stato dischiudere uno scrigno. All'interno un tesoro di immagini e ricordi. Ora provava riluttanza nel compiere quel gesto. A casa, lontano mille miglia, forse solo il fiume e gli alberi erano ancora al proprio posto. Sentì un brivido scuotere le membra. Le immagini si mutavano in fantasmi, i ricordi trascoloravano in memorie. Giorno dopo giorno, il corso degli eventi lo allontanava da se stesso. Si sentì un fungo nato dalla terra, schiuma sulla corrente. L'incertezza premeva sul petto come un macigno. Quale sorte aveva incontrato la sua gente? Voci interiori tessevano trame di pensieri, ma da quella cacofonia emergevano solo dubbi, presentimenti allarmati, fosche premonizioni. Era la stanchezza, decise, a impedirgli di cogliere il senso di quell'agitazione. Pregò che il sonno giungesse presto. 2 ore più tardi era ancora sveglio, la testa percorsa dalle stesse ombre che il fiume disegnava sulla stoffa, le gambe pesanti. Prese in mano la Bibbia, la sfogliò distratto. Lesse un passo a proposito degli uccelli, che non devono pensare a lavorare perché il Signore provvede per loro, e infatti non lo fanno, vivono, volano e basta. Dio provvede a tutte le creature, uomini, gigli di campo, uccelli. Gli uomini però devono lavorare e combattere, le donne soffrire per il parto. Gigli e uccelli non peccarono in origine. Sua madre diceva che gli uccelli non sono animali come gli altri, sono angeli che portano gli spiriti degli uomini. Peter immaginò un uccello che spiegava le ali su di lui, diventava sempre più grande. Le ali coprivano il sole, estese da un capo all'altro dell'oceano. L'uccello era un'ombra, nera come la notte, silenziosa e insondabile.